Al Qiyama. La resurrezione. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. La uqsimu biyawmil qiyamah. Lo giuro per il giorno della resurrezione. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Lo giuro per l'anima in preda al rimorso. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَةِ Crede forse l'uomo che mai riuniremo le sue ossa? بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ Invece sì, possiamo persino riordinare le sue falangi. Bal yuridu l'insanu liyafjura amama. Ma l'uomo preferisce piuttosto il libertinaggio. Yas'alu ayyana yawmul qiyama. Chiede: quando verrà il giorno della resurrezione? Fa idha bariqal basar. Quando sarà abbagliato lo sguardo? وخسف القمر ed eclissata la luna وجمع الشمس والقمر e riuniti il sole e la luna يقول الإنسان يومئذ أين المفر in quel giorno l'uomo dirà dove fuggire كلا لا وزر no, non avrà rifugio alcuno إلى ربك يومئذ المستقر. In quel giorno il ritorno sarà presso il tuo Signore. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. In quel giorno l'uomo sarà edotto di quel che avrà commesso. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Sì, l'uomo testimonierà contro se stesso. ولو ألقى معاذيره. Pur avanzando le sue scuse. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Non agitare la tua lingua con esso per affrettarti. إن علينا جمعه وقرآنه. In vero spetta a noi la sua riunione e la sua recitazione. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Quando lo recitiamo, ascolta attento la recitazione. ثم إن علينا بيانه. Poi spetterà a noi la sua spiegazione. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. No, voi amate l'effimero della vita terrena. Wa tazaruna al-akhira. E trascurate l'altra vita. Wujuhun yawma idhin nadira. In quel giorno ci saranno dei volti splendenti che guarderanno il loro Signore. E in quel giorno ci saranno volti rabbuiati al pensiero di subire un castigo terribile. No, quando l'anima sarà giunta alle clavicole. Sarà gridato: chi è esorcista? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ed egli concluderà che è prossima la dipartita. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ e le gambe si irrigidiranno. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. In quel giorno il ritorno sarà verso il tuo Signore. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Ma egli non credette e non eseguì l'orazione. وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Tacciò invece di menzogne e voltò le spalle. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Ritornando poi verso la sua gente, camminando con alterigia. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. Guai a te, guai. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. E ancora guai a te, guai. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Crede forse l'uomo che sarà lasciato libero? أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. Già non fu che una goccia di sperma eiaculata. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Quindi un'aderenza, poi Allah lo creò e gli diede forma armoniosa. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Poi ne trasse una coppia, il maschio e la femmina. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Colui che ha fatto tutto questo non sarebbe dunque capace di far risorgere i morti?